conosce gli infiniti nomi di Dio. Nel tentativo di dare un conto alla sua presenza e descrivere la sua azione è la maniera per conoscerlo, suo amore. Una di queste immagini è appunto la figura del pastore, che nel gergo è non il pastore, il buon pastore, ma il pastore bello. Nel linguaggio dei profeti, addirittura Dio stesso fa la sua autopresentazione, il suo autoritratto. Ezechiele, per esempio, Dio, il Signore, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, come un pastore passa in regge, e così via. Ancora una sottolineatura. Oggi parlare di pastori in questa società elettronica e mediatica è cosa di altri tempi. Se poi uniamo pastore e gregge, il discorso non solo è strano per la maggioranza, ma addirittura ambiguo. È vero, ci sono tante persone che vogliono continuare a fare le pecore docili, quelle silenziose, quelle applaudenti, e forse anche nella Chiesa, anzi sicuramente anche nella Chiesa, i sottomessi, far tacere la propria coscienza, selezionare indifferenti e critici ciò che è bene e ciò che è male. Invece il pastore era il simbolo della cura. Egli conosce le sue pecore, i loro bisogni, la loro fragilità, perfino il loro modo di essere, il loro temperamento diverso, nonché le loro capacità. E chi sono i pastori secondo questo linguaggio biblico? Vengono chiamati pastori tutti coloro che con tenerezza, con disinteresse, si prendono a cuore le sorti delle persone singole o come popolo, a partire dai più deboli, i più indifesi, i più senza. Mi furono delle immagini, no? A proposito della porta, perché Gesù lì è drastico, parla della porta. Quelli delle bustarelle invece non passano dalla porta, passano dai cunicoli, si mettono là in cappuccio. E come dove sono? Sono nel recinto a pulirsi le ferite, allora, per usare un linguaggio un po' di dubbio. Un'ultima sottolineatura. Perché mai l'evangelista recupera e innerva questa cosa del pastore. Una icona bellissima di Gesù. Non tanto la preoccupazione di riportarsi un discorso di chissà dove, o un discorso fatto da Gesù. L'Evangelista Giovanni sta parlando alla sua comunità, quindi è l'origine del cristianesimo, perché all'interno della comunità c'erano alcuni che conosciamo e volevano prevalere su primi posti, ultimi posti, posti numerati, quelli riservati. Ecco, dimenticando l'esempio del Maestro che si era fatto pastore di tutte le pecore, che conosce per nome, che guida e così via. Per questo ripropone l'immagine del pastore bello, che pone attenzione, si mette a servizio, il pastore fa pensare a un uomo che cammina nella vita con la fiducia nel cuore, un uomo che sorride là dove c'è anche solo un briciolo di vita, che affronta, che dialoga con il gregge, che affronta, che dialoga con il gregge. Oggi direi che è un pastore bello chi sa ascoltare più che farsi ascoltare, e io dovrei far silenzio subito. Concludo con qualche punto, se può essere, perché la chiave di lettura di questo brano è nella parte finale: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, se non sono troppo immodesto. Faccio una piccola parentesi, perché no? Sapete che quando uno diventava prete, anch'io 55 anni fa, si usava a fare quelle cavolatine e immaginette con le frasette sotto. E anch'io avevo scritto: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Però non sapevo che cosa stava scritto. Però scritto. Una volta tanto, è il tema della vita molto caro all'Evangelista di Giovanni. Questo brano si riallaccia all'inizio della Genesi. Non scandalizzatevi. Quando l'autore fa dire a Dio creatore che ogni cosa creata era buona. Gesù Cristo è in linea con quella lettura della creazione. Conferire la vita piena. Confermare, tra virgolette, il miracolo. Pericoloso parlare di miracoli in questo momento. Tutti fanno poi il miracolo di cappucci, di cuori, di santi papi, tutti fanno miracoli. Cioè, sarebbe qualcuno che i miracoli dobbiamo fare di noi. Vabbè. La vita è unica. della dimensione del corpo e dello spirito. Il Signore è donatore della totalità della vita, senza distinzione. Allora, per donare la vita è necessario un rapporto di intimità, un rapporto di amore. E l'immagine del pastore buono esprime relazione di attenzione, di delicatezza, di tenerezza tra chi custodisce e chi è custodito. Poi Gesù entra nel recinto, prende le pecore ma le porta fuori, perché il recinto fa mica bene, crea gli steccati, li porta fuori. Quante persone buone ci sono vicino, però non vengono mai riconosciute. Parlo di chi continua il suo matrimonio dopo 50 anni, non è una cosa da poco. Coraggio con quelli che hanno 25 anni. La scrittura usa spesso un'immagine o immagini che implicano relazioni, relazioni affettive intense, padre-figlio, sposo-sposa, pastore-gregge. Dare vita esige la gioia dell'altro vissuta come proprio. Posso lasciare questo messaggio e chiudere la parte? Dare vita esige la gioia dell'altro, l'altro che gode, vissuta come propria. Sembra una cosa così semplice. Eppure, chi vuol bene è lontano dal fare calcoli, sottoscrivere i obblighi. Dare vita è connaturale alla donatività, alla predisposizione alla natività. Se non c'è generosità, non è possibile il dono. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma... Vabbè.